nonostante il mio orgoglio. Io ritorno perché altra scelta non c'è. Ricordando i giorni che in me. Tu dimmi se c'è ancora per me un'altra occasione, un'altra emozione, se ancora sei tu, ancora di più, un'altra canzone fresca e nuova. Tu dimmi se mai qualcosa so.